Il terzo anello, ad alta voce. Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Cominciò a nevicare. Una neve fitta e pesante, come di pieno inverno. In pochi istanti, quasi incredibile, le ghiaie della cengia divennero bianche e la luce venne improvvisamente a mancare. Era piombata la notte, a cui nessuno fino allora aveva seriamente pensato. I soldati, senza dimostrare il minimo allarme, sciolsero ciascuno il rotolo della mantella e si coprirono. «Che cosa fate, per Dio?» scattò il capitano. «Rifate sulle mantelle subito! Non vi salterà mica in mente di passare qui la notte! Bisogna scendere, adesso!» Angustina disse: «Se mi permette, signor capitano, fino a che quelli sono in cima, che cosa vorrebbe dire lei?» chiese il capitano con ira. «Che non si può tornare indietro, mi pare, fino a che quelli del nord sono sulla cima. Loro sono arrivati prima, e noi non abbiamo più niente da fare qui, ma ci faremmo una bella figura!» Il capitano non rispose, camminò su e giù qualche istante per la larga cengia e poi disse: «Ma anche adesso loro se ne andranno ben via sulla cima con questo tempo, e ancora peggio di qua!» «Signori!» chiamò una voce dall'alto, mentre spuntavano sul ciglio della paretina quattro o cinque teste. «Senza complimenti, prendete queste corde, venite su, di qua! Col buio non ce la fate a scendere per la parete!» Contemporaneamente due funi vennero gettate dall'alto, affinché quelli della fortezza se ne servissero per salire la breve muraglia. «Grazie!» rispose il capitano Monti con aria beffarda. «Grazie per il pensiero, ma ci pensiamo noi ai casi nostri!» «Come credete!» gridarono ancora dalla cima. «Comunque, ve le lasciamo qua, semmai vi facessero comodo!» Seguì un lungo silenzio. Non si udiva che il fruscio della neve e qualche colpo di tosse dei soldati. La visibilità era quasi completamente scomparsa. Appena appena si riusciva a distinguere il ciglio della paretina incombente, dal quale ora si irradiava il rosso riflesso di una lanterna. Anche vari soldati della fortezza, rimessisi le mantelle, avevano acceso dei lumi. Uno fu portato al capitano, se alle volte gli potesse servire. «Signor capitano», disse Angustina con voce stanca. «E cosa c'è adesso?» «Signor capitano, che cosa ne direbbe di una partitina?» «Al diavolo la partitina!» rispose il Monti, che capiva benissimo come per quella notte non si potesse più scendere. Senza dir motto, Angustina trasse dalla busta del capitano, affidata a un soldato, il mazzo delle carte. Stese su un sasso un lembo della propria mantella, ci mise di fianco la lanterna, cominciò a mescolare. «Signor capitano», ripeté, «mi dia ascolto, anche se non ne ha voglia». Il Monti capì allora che cosa intendesse dire il tenente. Di fronte a quelli del nord, che probabilmente stavano beffeggiandoli, non rimaneva altro da fare. E mentre i soldati si rincantucciavano alla base della parete, sfruttando ogni rientranza, o si mettevano a mangiare fra scherzi e risa, i due ufficiali, sotto la neve, cominciarono una partita alle carte. Sopra di loro, le rocce a picco, sotto il precipizio nero. «Cappotto, cappotto!» si udì gridare dall'alto, in tono scherzoso. Né il Monti né l'Angustina sollevarono il capo, continuando a giocare. Il capitano però lo faceva di malavoglia, sbattendo le carte sulla mantella con rabbia. Invano Angustina tentava di scherzare. «Magnifico! Due assi in fila! Ma questo lo prendo io! Dica la verità che quel bastone se l'era dimenticato!» E rideva anche di quando in quando, un riso apparentemente sincero. Dall'alto si udì una ripresa di voci, poi rumori di sassi smossi. Probabilmente stavano per andarsene. «Buona fortuna!» gridò ancora verso di loro la voce di prima. «Buona partita!» E non dimenticate le due corde. Né il capitano né Angustina risposero. Essi continuarono a giocare senza neanche un cenno di risposta, ostentando grande concentrazione. Il riflesso della lanterna disparve dalla cima. Evidentemente quelli del nord stavano andandosene. Le carte, sotto la neve fitta, si erano fatte fradice e non si riusciva a mescolarle che a stento. «Basta, adesso!» fece il capitano gettando sul mantello le proprie. «Basta con questa commedia!» Si ritrasse sotto le rocce e si avvolse con cura nella mantella. «Tony!» chiamò. «Portami la mia busta e trovami un po' d'acqua da bere!» «Ci vedono ancora!» disse Angustina. «Ci vedono ancora dalla cresta!» Ma siccome capiva che il monte ne aveva abbastanza, continuò da solo, simulando che la partita continuasse. Fra clamorose esclamazioni inerenti al gioco, il tenente reggeva nella mano sinistra le proprie carte, con la destra le gettava sul lembo della mantella, facendo finta di raccogliere le prese. Attraverso la fitta neve, gli stranieri non potevano certo dalla cresta notare che l'ufficiale giocava da solo. Un'orribile sensazione di gelo gli era intanto penetrata nelle viscere. Egli sentiva che probabilmente non sarebbe stato più capace di muoversi, neppure di distendersi. Mai che si ricordasse si era sentito così male. Sulla cresta ancora si scorgeva il dondolante riflesso dell'altrui lanterna che si allontanava. Lo potevano ancora vedere. E alla finestra del meraviglioso palazzo, ecco un'esile figura. Lui, Angustina bambino, di un impressionante pallore, con un elegante vestito di velluto e un collo di pizzo bianco. Con un gesto stanco aprì la finestra, chinandosi verso i fluttuanti spiriti appesi al davanzale, come se fosse con loro in dimestichezza e volesse dire una cosa. «Cappotto! Cappotto!» egli tentava ancora di gridare per farsi sentire dagli stranieri, ma gli usciva una povera voce rauca e sfinita. «Per Dio, è la seconda volta, signor capitano!» Chiuso dentro il suo tabarro, masticando lentamente qualche cosa, il Monti ora fissava attentamente Angustina, con ira sempre minore. «Basta, venga al riparo, tenente, oramai quelli del nord se ne sono andati!» «Lei è molto più bravo di me, signor capitano!» insisteva Angustina nella finzione, mancandogli sempre più la voce. «Ma stasera non è proprio in vena! Perché continua a guardare in su? Perché guarda la cima? È forse un poco nervoso?» Allora, sotto il formicolare della neve, le ultime fradice carte sfuggirono dalla mano del tenente Angustina. La mano stessa ricadde priva di vita, rimase inerte lungo il mantello, alla luce tremula della lanterna. La schiena appoggiata a un sasso, Il tenente si abbandonò con moto lento all'indietro e una sonnolenza strana lo stava invadendo. E verso il palazzo, nella notte di luna, avanzava per l'aria un piccolo corteo di altri spiriti che trascinavano una portantina. «Tenente, venga qui a mangiare un boccone! Con questo freddo bisogna mangiare, si faccia forza, anche se non ne ha voglia!» Così gridava il capitano, e un'ombra di apprensione vibrava nella sua voce. «Venga qua sotto! E la neve sta per finire!» Era infatti così. Quasi di colpo, le bianche falde si erano fatte meno fitte e pesanti, l'atmosfera più limpida. Si potevano già scorgere, ai riflessi delle lanterne, rocce distanti anche parecchie decine di metri. E improvvisamente, attraverso uno squarcio della bufera, a una lontananza incalcolabile, comparvero i lumi della fortezza. Parevano infiniti, come di un castello incantato, immerso nel tripudio di carnevali antichi. Angustina li vide e un sottile sorriso si formò lentamente sulle labbra intorpidite dal cielo. «Tenente!» chiamò ancora il capitano, che cominciava a capire. «Tenente! Butti via quelle carte! Venga qua sotto!» Ma Angustina guardava i lumi e in verità non sapeva più esattamente di che cosa fossero, se della fortezza o della città lontana, oppure del proprio castello, dove nessuno stava aspettandolo di ritorno. Forse, dagli spalti del forte, una sentinella in quel momento aveva voltato casualmente gli sguardi verso le montagne, riconosciuto i lumi sull'altissima cresta. A così grande distanza, la paretina maligna era meno che nulla, e forse era proprio Drogo a comandare la guardia. Drogo! Che probabilmente, se avesse desiderato, sarebbe pure potuto partire col capitano Monti e Angustina. Ma a Drogo era parsa una cosa stupida. Sfumata la minaccia dei tartari, quel servizio gli era sembrato nient'altro che una seccatura in cui non c'era da meritare nulla. Adesso però anche Drogo vedeva il tremolio delle lanterne in cima e cominciava a rimpiangere di non essere andato. Non soltanto in una guerra, dunque, si poteva trovare qualche cosa di degno. Ed ora avrebbe voluto anche lui essere lassù, nel cuore della notte e della tempesta. Troppo tardi. L'occasione gli era passata vicina e lui l'aveva lasciata andare. Thank you. ben riposato e asciutto, chiuso nel suo caldo mantello, Giovanni Drogo forse guardava invidiosamente i lontani lumi, mentre Angustina, tutto incrostato di neve, adoperava con difficoltà la residua forza per lisciarsi i baffi bagnati e drappeggiare minuziosamente il mantello, non allo scopo di serrarselo addosso e stare più caldo, ma per altro suo arcano disegno. Dal riparo il capitano Monti lo fissava stupefatto. Si domandava che cosa Angustina stesse facendo, dove mai gli fosse capitato di vedere un'altra figura molto simile, senza però riuscire a ricordarla. C'era, in una sala della fortezza, un vecchio quadro rappresentante la fine del principe Sebastiano. Mortalmente ferito, il principe Sebastiano giaceva nel cuore della foresta, appoggiando la schiena a un tronco, la testa un po' abbandonata da una parte, il mantello ricadente con armoniose pieghe. Nulla c'era nell'immagine della sgradevole crudeltà fisica della morte, e guardandolo non ci si stupiva che il pittore gli avesse conservata tutta la nobiltà ed estrema eleganza. Ora Angustina, non che gli ci pensasse, andava assomigliando al principe Sebastiano ferito nel cuore della foresta. Angustina non aveva come lui la lucente corazza, né ai suoi piedi giaceva l'elmo sanguinolento, né la spada spezzata. Non appoggiava la schiena a un tronco, bensì a un duro macigno. Non ultimo raggio del sole lo illuminava in fronte, ma soltanto una fioca lanterna. Eppure gli assomigliava moltissimo. Identica la posizione delle membra, identico il trappeggio della mantella, identica quell'espressione di stanchezza definitiva. Allora, al paragone di Angustina, pur essendo ben più vigorosi e spavaldi, il capitano, il sergente e tutti gli altri soldati sembrarono l'un l'altro rozzi bifolchi. E nell'animo del Monti, per quanto fosse quasi inverosimile, nacque un invidioso stupore. Cessata la neve, il vento mandava lamenti fra le rupi, molinava un polverio di ghiaccioli, faceva oscillare le fiammelle fra i vetri delle lanterne. Angustina pareva non lo sentisse. Se ne stava immobile, appoggiato al pietrone, gli occhi fissi ai lumi lontani della fortezza. «Tenente!» provò ancora il capitano Monti. «Tenente! Si decida! Venga qua sotto, se rimane lì non può resistere! Finirà congelato! Venga qua sotto!» «Grazie, capitano», disse con fatica Angustina, e riuscendogli troppo difficile parlare, alzò lievemente una mano, facendo un segno come a dire che non importava, che erano tutte sciocchezze, senza il minimo peso. Per qualche minuto non si udì che il grido rauco del vento. Anche i soldati, riuniti a mucchi sotto le rocce per stare più caldi, avevano perso la voglia di scherzare e lottavano in silenzio col freddo. Come il vento ebbe una pausa, Angustina rialzò di qualche centimetro il capo, mosse adagio la bocca per parlare, gli uscirono soltanto queste due parole. «Bisognerebbe domani e dopo più nulla». Due parole soltanto. E così fioche che neppure il capitano Monti si accorse che lui aveva parlato. Due parole, e la testa di Angustina si ripiegò in avanti, abbandonata a se stessa. Una delle sue mani giacque bianca e rigida entro la piega del mantello, la bocca riuscì a chiudersi, e di nuovo sulle labbra andò formandosi un sottile sorriso. «Che cosa volevi dire, Angustina? Che cosa? Domani!» Il capitano Monti, uscito finalmente dal suo riparo, scuote con forza per le spalle il tenente per fargli riprendere vita, ma non riesce che a scomporre le nobili pieghe del militaresco sudario. Ed è un peccato. Nessuno dei soldati si è ancora accorto di quanto è successo. «Il Monti impreca!» Ma gli risponde solo, dal precipizio nero, la voce del vento. «Che cosa volevi dire, Angustina? Te ne sei andato senza terminare la frase? Forse era una cosa stupida e qualunque. Forse un'assurda speranza. Forse anche niente. Sepolto che fu il tenente Angustina, il tempo ricominciò a passare sulla fortezza, identico a prima. Il maggiore Ortiz domandava a Drogo: «Da quanto tempo ormai?» Drogo diceva: «Sono qui da 4 anni». Era venuto improvvisamente l'inverno, lunga stagione. Sarebbe caduta la neve, prima 4 o 5 centimetri, poi, dopo una pausa, uno strato più alto, e poi ancora altre volte. Pareva impossibile farne un conto. C'era tanto tempo davanti prima che ritornasse la primavera. Eppure, un giorno, molto prima del previsto, molto prima, si sentirà dai bordi delle terrazze scrosciare giù rivoli d'acqua e l'inverno sarà inesplicabilmente finito. La bara del tenente Angustina, avvolta nella bandiera, giaceva sottoterra in un piccolo recinto a un lato della fortezza. Sopra c'era una croce di pietra bianca con su scritto il nome. Per il soldato Lazzari, più in là, una croce più piccola, di legno. Disse Ortiz: «Io alle volte penso, noi desideriamo la guerra, aspettiamo l'occasione buona, ce la prendiamo con la sfortuna perché non succede mai niente. Eppure, ha visto? Angustina. Vuol dire, fece Giovanni Drogo, vuol dire che Angustina non ha avuto bisogno della fortuna? Che lui è stato buono lo stesso?» «Lui era debole e credo anche fosse malato», disse il maggiore Ortiz. «Stava peggio di tutti noi, effettivamente. Lui, come noi, non ha incontrato il nemico, non c'è stata neanche per lui la guerra. Eppure è morto come in una battaglia. Lo sa, tenente, com'è morto?» Drogo disse: «Sì. C'ero anch'io, quando il capitano Monti raccontava. Era venuto l'inverno, e gli stranieri se n'erano andati. I bei stendardi della speranza, dai riflessi forse di sangue, erano lentamente calati, e l'animo era di nuovo tranquillo. Ma il cielo era rimasto vuoto. Inutilmente l'occhio cercava ancora qualche cosa alle estreme frontiere dell'orizzonte. Lui ha saputo morire al momento giusto, effettivamente», disse il maggiore Ortiz, «come se avesse preso una pallottola. Un eroe, c'è poco da dire. Eppure nessuno sparava. Per tutti gli altri che quel giorno erano con lui, le probabilità erano identiche. Lui non aveva proprio nessun vantaggio, se non forse quello di poter più facilmente morire. Ma in fondo, gli altri che hanno fatto? Per gli altri è stata una giornata pressappoco come tutte le altre». Drogo disse: «Sì, soltanto un poco più fredda». «Sì, un po' più fredda», fece Ortiz. «Anche lei, tenente, del resto, poteva andare con loro. Bastava che l'avesse chiesto». Thank you.